A bordo campo di Dario Ricci. 11 medaglie conquistate, record storico eguagliato nelle competizioni mondiali. Anche a Catania 2011 la scherma italiana si è confermata il grande forziere del medagliere olimpico italiano. E allora oggi ospite a bordo campo uno dei protagonisti dei mondiali di Catania, catanese proprio tra l'altro, Paolo Pizzo, 28 anni, campione del mondo di spada. Lo abbiamo incontrato proprio a bordo pedana a Catania, sentiamo cosa ci ha detto. Catania, mondiale di scherma 2011, siamo proprio a bordo pedana, azzurri anche impegnati in alcune gare. Al nostro microfono, ospite d'eccezione, Paolo Pizzo, neocampione del mondo di spada, catanese. Beh, Paolo, innanzitutto ci hai regalato delle grandissime emozioni con questa tua vittoria. Oggi che sensazioni hai dentro? Sì, ciao, grazie a tutti. Intanto, visto che mi state supportando da tutte le parti d'Italia, è un piacere immenso. Le sensazioni ora sono... sta scendendo quell'adrenalina, è giusto, sto mettendo in un attimo la gioia, un attimo da parte la gioia per la vittoria, poi ci ripenserò. Senti, dicevi, è difficile abituarsi a tanto successo, soprattutto a tanti risultati, un risultato così importante che arriva dopo anni di sacrifici e di lavoro nell'oscurità, no? Insomma, questa medaglia d'oro al collo quanto pesa come responsabilità e come gioia? Come ho detto, ha due facce il peso, perché era un medaglione veramente grosso e pesava, però da un certo punto di vista è leggera perché ti viene voglia di guadagnarne altre. E beh, pesantissima, nel senso che comunque è stata veramente dura in questi anni. Io, come ho accennato più volte, sono stato abituato a lottare, a non mollare. Questa medaglia è un po' la metafora della vita, secondo me. Nello sport è facile lottare da un certo punto di vista, però... Se superi certe cose della vita, poi è facile trasportarle, per me in pedana, come per altri in altri ambiti. Insomma. È vero, hai fatto esplicito riferimento a un momento pure molto privato della tua vita, no? La lotta col male estremo, con il tumore al cervello, giovanissimo, a 13 anni. Cioè, è impossibile sintetizzare in poche battute che esperienza è stata e cosa ti ha lasciato, ma quanto di quell'esperienza c'è nel Paolo Pizzo atleta? Tantissimo, sì, immaginate cosa può voler dire, anzi sono stato relativamente fortunato, ne sono venuto fuori quasi velocemente, non mi rendevo conto perché ero troppo piccolo, poi crescendo anche con la gente attorno che ti parla, scambio opinioni, capisci cosa hai passato e affronti, per me sportivamente è stato quasi più semplice non buttarmi giù nonostante tutte quelle che ho dovuto passare nella mia carriera sportiva, quindi... Insomma, è stata una palestra davvero per lo sport della mia vita, sì. Tra l'altro poi conquistare questo trionfo a Catania, nella tua Catania, credo che abbia un significato anche per il Sud straordinario, no? Si possono produrre talenti e valorizzarli. No, esatto, io sì, voglio lanciare questo messaggio alla gente del Sud Italia. Ci sono mille difficoltà, mille problemi in ogni angolo, anche inaspettati, ma bisogna tenere duro, lottare, guardare avanti, guardare sempre positivo. Io nel mio piccolo ho fatto questo e se è possibile dico a tutti quanti di tenere duro onestamente e lavorare duro, che poi prima o poi si risorge. Tu come hai scoperto la scherma? Perché insomma è uno sport che chiaramente in Italia è lo sport delle medaglie, è lo sport delle Olimpiadi, ma magari da piccolino uno può essere anche attratto dal calcio, dal basket. Come si sale in pedana? Si sale, io grazie a mio padre che faceva scherma, io facevo sia calcio, praticavo calcio e pallavolo nello stesso tempo. Un giorno mio padre mi ha detto prova la scherma e da quel giorno io, che sono un individualista estremo proprio, sono innamorato di questo sport da matti, è bellissimo, lo consiglio a tutti. Veramente certi giorni dove hai ovviamente dei problemi, sei stressato, ti vai in palestra ed è uno sfogo impressionante. Riesci sollevato proprio, appena finito l'allenamento hai un sorriso che va da lato a lato della faccia, lo consiglio veramente a tutti. Senti, tra l'altro i non esperti di questa disciplina l'apprezzano sì per lo sforzo che fate sotto il profilo tecnico, ma poco sanno della fatica fisica che fate per arrivare lucidi nel momento della stoccata decisiva. Ecco, il tuo allenamento, il tuo lavoro. Io mi alleno 7 giorni su 7, almeno 5 ore al giorno, seriamente. È un paio d'anni che sono entrato realmente in quest'ottica, era inutile continuare a perdere energie era bello avere certi hobby e rilassarmi, però per diventare campioni bisogna accantonare, ogni tanto bisogna accantonare certe cose e mettersi a lavorare duro. Per un assalto che dura un quarto d'ora io lavoro 5 ore al giorno, è così. Il sacrificio che ti costa di più, cos'è? Una pizza con gli amici oppure il sacrificio che voi atleti dovete fare a tavola? La cosa che dici, beh caspita, qua appena vinco l'oro olimpico me lo concedo. Hai capito benissimo, io sono un mangione, sono siciliano qui, ma in tutta Italia c'è, anche a Roma non è che mi va male, quindi per me, anzi un anno fa avevo 7-8 kg in più, è stata anche quella una piccola battaglia. Ho dimezzato assolutamente la quantità dei pasti, subito. E quindi ogni volta mi ritrovo a colazione a mangiare un pochissimo, a pranzo ancora di meno, a cena il giusto. E non è facile, ma come dicevi tu, dopo questo mondiale, osteria. Sì. Quindi insomma, Passito e Cannoli aspetteranno ancora qualche anno, ma l'appetito viene mangiando in termini di medaglie. L'obiettivo che probabilmente già tu hai in testa è Londra 2012 e questo titolo ti fa forse chiaramente titolare di una squadra dove tu sei entrato invece questa volta per la prima volta da titolare fisso. Sì, è l'obiettivo da cui... Cioè, ogni atleta comincia a fare uno sport e ha quello in mente, l'Olimpiade, anche solo partecipare. Io parteciperò cercando di arrivare alle migliori condizioni e vorrei un'altra medaglia, ovviamente è scontato dirlo. Per il resto, cosa dire? sono quasi emozionato, l'Olimpiade, vedi, quando dico questa parola mi blocco perché non ci credo, ragazzi. Non ci riesce neanche a immaginarla, no, quella pedana, eh? No, è impossibile, non focalizzo, non ce la faccio. Quando sarò lì sarà dura, ma anche lì devo riuscire a mettere da parte le mie emozioni e a concentrarmi come ho fatto l'altro ieri. Senti, questa polemica in merito al portabandiera, Federica Pellegrini, queste dichiarazioni, che effetto ti ha fatto? Diciamo, tu magari ancora è presto, magari fra qualche Olimpiade potrebbe però coinvolgerti anche da vicino, eh? Sì, io posso dire che non so bene cosa ha portato Federica a fare quelle dichiarazioni e se le ha fatte. Per me per portare la bandiera alle Olimpiadi andrei a piedi a Londra, quindi però ovviamente... Manica a nuoto compresa. Sì, non c'è problema. La manica la faccio facilmente, ormai sono arrivato, se vado a piedi fino a lì. Sei arrivato quest'oro, dopo tutti questi sacrifici, farsi una nuotatina non è certo un problema. Ti chiedo ancora, a proposito di dichiarazioni, non sei stato tenero, pur con l'oro fresco al collo, nei confronti di una federazione che, a tuo dire... ti ha supportato solo parzialmente in questi anni, no? Possiamo spiegare meglio questo concetto, perché non credo che non sia facile per te fare dichiarazioni di questo tipo e è bene che vadano chiarite. Beh, io non è certamente il momento della polemica questo, però ti posso dire che 2 anni fa ero numero 5 del ranking mondiale e non mi hanno fatto fare né gli europei, né i campionati europei, né i campionati del mondo. È stata durissima andare avanti, volevo smettere, ti crolla il mondo addosso sportivamente parlando, perché comunque i sacrifici sono tanti, già avevo lasciato la mia città, ti fai mille domande, rompi le scatole a tutti quelli a cui puoi romperle, insomma. Questo è stato l'apice di tutto quanto c'è stato di negativo nella mia carriera sportiva. Non è stato facile, no. Però posso dirti che alla fine, se il risultato deve essere questo, ci avrei dovuto mettere la firma. Ben vengano anche certi stimoli, ma adesso pace fatta, armonia ritrovata? Sì, ora infatti, come ho potuto preparare questo mondiale in santa pace finalmente, il risultato è stato eclatante, ma vorrei fare tutte le gare della mia vita in queste condizioni, titolare, senza rogne, col mio maestro vicino. A proposito del tuo maestro, questo Pozanov, perdona, noi non siamo espertissimi del campo, ma è un personaggio nuovo che emerge insieme a te, no? Già tutti ne hanno fatto il nuovo Boskov, credo un personaggio duro ma anche con alcuni aspetti simpatici, no? C'è qualche episodio del vostro rapporto che ci vuoi raccontare? Sì, beh lui è così... È un'icona per me, proprio, è il classico, insomma, è ex sovietico, era un militare, quindi è un po' burbero, ti mette in riga e poi ogni tanto quando non te l'aspetti ti butta giù una barzelletta che quasi non capisci, che Poi mille metafore, per esempio, magari gli mostro la mia spada, chiedo se va bene in quel momento, lui mi leva la spada di mano e mi mostra le sue mani e fa: queste vere armi, cioè, è questo il personaggio, quasi da film. Io gli devo tantissimo, tantissimo, quasi tutto. Ecco, dal punto di vista tecnico, su quali aspetti invece avete lavorato? Sì, ero uno che... abbiamo lavorato soprattutto sulla misura e sul tempo dell'azione, come nella box, no? Devi stare, non puoi solamente aggredire, sennò ti scopri, ma ha cambiato in questo soprattutto, ma nei passi, nell'aspettare quell'attimo di più prima di partire, perché poi non ce la faccio, devo attaccare. Quindi. Però insomma, stare un po' col freno a mano tirato può anche tornare utile. No, indubbiamente, oggi lo dico con certezza, sì. Invece a tutta velocità adesso verso Londra 2012, come te lo immagini quel giorno? Non dico il giorno in cui magari, e te lo auguriamo, andrai a giocarti la medaglia, ma il giorno in cui salirai su una pedana olimpica per la prima volta. Non so che dirti, perché se più dell'emozione di avere qua il palazzetto l'altro ieri di Catania, nella mia città, strapieno, a giocarmi mentre mi giocavo le medaglie, non ci può essere. L'Olimpiade... cercherò di... no, non è vero, sto mentendo. non è vero, non lo so. Mi tremeranno le gambe e cercherò di fare finta di stare benissimo. E allora, Paolo Pizzo, grazie per essere stato ospite di Radio 24, di A Bordo Campo, e allora appuntamento a Londra 2012, incrociamo le lame, dai. Sì, le incrociamo, tocchiamo ferro e tutti gli scongiuri possibili. A Bordo Campo. Aule di tribunali che si aprono ancora una volta per il calcio europeo, in particolare per l'UEFA, in questo periodo coinvolta da quello che è il cosiddetto caso Sion, a partire dal nome della squadra elvetica esclusa dall'Europa League, che sta animando proprio le controversie legali di questi giorni. Allora, ce ne occupiamo oggi qui a Bordo Campo, sentiamo subito di cosa si tratta in questa scheda. La scorsa estate il club elvetico del Sion è stato escluso dall'Europa League nonostante nel preliminare avesse eliminato il Celtic Glasgow per aver schierato 6 giocatori ingaggiati infrangendo il divieto di fare campagna acquisti nel corso del 2011 e come sanzione per aver indotto il portiere egiziano Essam El Adari a rompere il contratto che lo legava con la squadra del Al Ahly. Contro l'esclusione dall'Europa League nel girone con Rennes, Atletico Madrid e Udinese e il reintegro a settembre del Celtic Glasgow, il Sion si è rivolto a un tribunale civile svizzero, che gli ha dato ragione, ordinandone il reintegro nella competizione. La UEFA non ha però ottemperato e anzi si è dichiarata incompetente, invocando l'intervento del Tribunale di Arbitrato dello Sport. Questi i contorni del cosiddetto caso Sion, ne parliamo con un ospite d'eccezione, Antonio Felici, corrispondente in Italia del periodico francese France Football, giornalista sportivo, autore tra l'altro, ed è nelle librerie da novembre, Le pagine nere del calcio, edito da Jacobelli e sempre per la stessa casa editrice. Antonio Felici ha pubblicato anche Lo sport e l'Europa, dal conflitto al dialogo, testo quanto mai appropriato visto l'argomento che affrontiamo oggi a Bordo Campo. Benvenuto Antonio al nostro microfono. Grazie dell'invito e un saluto a tutti gli amici all'ascolto. Allora, entriamo subito nel mezzo della vicenda Sion, ennesimo caso legale che mette a rischio la stabilità del calcio europeo. Ti chiedo subito a che punto siamo della vicenda. In questi giorni c'è stato Platini e il presidente del Sion che sono stati ascoltati dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Insomma, come va a finire, Antonio? Ma sai come va a finire? Non è che sia così semplice prevederlo, perché chiaramente questo è l'ennesimo caso nel quale le esigenze dello sport e della sua organizzazione vengono messe in discussione da tribunali ordinari, per cui normalmente in questi casi si avviano dei lunghi bracci di ferro che possono portare a delle conseguenze assolutamente imprevedibili. Io ricordo che in Italia il campionato di Serie A è a 20 squadre come indiretta conseguenza di un conflitto di questo genere, perché gli ascoltatori più attenti ricorderanno il famoso caso Catania che scatenò un putiferio nel campionato di Serie B il Catania perse una partita a tavolino per aver schierato un giocatore squalificato in un campionato della primavera, ricorse al tribunale ordinario, il tribunale ordinario lo riammise e quindi cancellò praticamente una decisione presa dagli organi di giustizia sportiva. Era infatti l'estate del 2003, come esatto. Dimenticarcelo? Non possiamo dimenticarlo, anche perché in quell'anno la federazione fu praticamente costretta a creare un campionato di Serie B mostruoso con 24 squadre la conseguenza, come dicevo in diretta, fu che la Serie A passò a 20 per uniformità, per così dire, per cui la struttura che oggi ci ritroviamo dei campionati è in parte determinata da quella decisione dei tribunali ordinari. Ora, per prevenire esiti catastrofici di questa natura, perché voi capite che chiaramente quando i calendari o la struttura delle competizioni vengono decise da sentenze dei tribunali ordinari, la stessa organizzazione dello sport va un po' a carte 48. Ecco, dicevo, per prevenire queste possibili conseguenze, l'UEFA, Platini in primis, hanno avanzato delle proposte. Ecco, quali possono essere le misure allo studio per uscire da questa impasse? Beh, le misure allo studio dell'UEFA sono le seguenti. L'UEFA praticamente, per evitare possibili conseguenze, ha proposto alcune soluzioni per evitare in sostanza che si debba rigiocare tutto il girone di Europa League, dove avrebbe dovuto essere inserito il Sion, che era stato appunto eliminato per aver schierato alcuni giocatori acquistati senza poterlo fare. Alcune soluzioni che sono, per esempio, quella di inserire il Sion direttamente agli ottavi di finale. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di consentire al Sion di disputare comunque le partite della fase a gironi dell'Europa League. Questo sempre in previsione che i tribunali ordinari possano confermare la loro decisione, cioè quella che il Sion deve essere riammesso all'Europa League. Di fondo, Antonio, come sottolineavi, c'è però questa forte discrepanza, cioè c'è questo problema che a livello comunitario non viene riconosciuta alcuna specificità per lo sport, come esatto. Dimostrò anche anni fa la sentenza Bosman applicata ai calciatori. In poche parole, l'Europa considera la stessa stregua come lavoratori comunitari, esatto. Tanto un idraulico polacco quanto Gigi Buffon oppure Totti oppure Del Piero. Esatto, perché l'Europa, cioè l'Unione Europea, fa un ragionamento molto semplice, equipara l'attività sportiva ad un'attività di tipo economico, perché comunque c'è un interesse economico e così via, per cui interpretandola in questo modo, automaticamente applica il diritto comunitario anche allo sport. Però già a partire dal 1974 ci si era accorti con un famoso caso che ormai è dimenticato, relativo a due allenatori di ciclismo su pista che si chiamavano Wolber e Koch, che praticamente non si può applicare il diritto comunitario in maniera meccanica all'attività sportiva, perché altrimenti si rischia di mandare tutto all'aria. Io vi faccio un semplice esempio che può chiarire la situazione. Il Sion era stato escluso perché sono le regole della FIFA ad imporre all'UEFA, che è l'organizzazione delle federazioni europee, di espellere il Sion. Ora, l'Unione Europea ha però giurisdizione soltanto in Europa, evidentemente, mentre l'UEFA è tenuta a rispettare delle regole che valgono in tutto il mondo. Voi capite che questo crea un conflitto dal quale non si riesce ad uscire. Ora, da anni il mondo dello sport, in primis il CIO, cioè il Comitato Olimpico Internazionale, chiede all'Unione Europea un fatto molto semplice: il riconoscimento sic et simpliciter della specificità dello sport. L'Unione Europea, dall'altra parte, riconosce questa specificità in termini molto generici, ma poi, quando si va nello specifico, pretende l'applicazione del diritto comunitario e non se ne esce. Questi conflitti e questi dibattiti in tribunale, a mio avviso, sono destinati a continuare finché non si risolve questo dilemma. Insomma, grazie anche all'UEFA gioiscono soprattutto gli avvocati, meno direi decisamente meno noi appassionati di sport. Staremo a vedere come andrà a finire questo caso. Intanto allora grazie ad Antonio Felici, lo ricordiamo, autore fra gli altri di Lo sport e l'Europa, dal conflitto al dialogo, edito da Iacobelli, direi lettura quanto mai appropriata rispetto a questo tema. A presto Antonio qui a Bordo Campo. Un saluto a tutti voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete dialogare con noi attraverso il nostro sito web www.radio24.it, attraverso la mail a bordocampo@radio24.it e con il blog del programma sempre sul nostro sito, che è anche lo strumento attraverso cui potete riascoltarci. L'appuntamento è sempre per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina alle 6.30 in replica. Buona giornata da Dario Ricci.